mes chers frères et sœurs. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Buonasera a tutte e a tutti dai microfoni di Radio Onda Rossa sulla Breccia dell'Onda, la trasmissione settimanale di Facciamo Breccia che si tiene ogni mercoledì dalle 20:15, anche se stasera con qualche minuto di ritardo, alle 21. Come sapete, appunto, siamo insieme ogni mercoledì per parlare delle tematiche della laicità, dell'autodeterminazione, dell'antifascismo. Tutto quello che volete sapere su Facciamo Breccia lo trovate su www.facciamobreccia.org. Stasera dedicheremo questa prima parte della trasmissione ancora ai fatti relativi alla beatificazione dei 498 franchisti che è avvenuto nello scorso fine settimana a Roma in San Pietro. Tema a cui abbiamo dedicato quasi integralmente la puntata di mercoledì scorso per appunto analizzare cosa è successo, quali sono state, insomma, le volontà vaticane per cui si è costruita questa vergognosa beatificazione di massa di sostenitori della sollevazione militare e della dittatura franchista. E stasera vorremmo analizzare invece a posteriori come è andato l'evento, come la stampa ha letto questa beatificazione, come la politica istituzionale italiana ha taciuto completamente su quanto accaduto, come invece le pratiche di movimento sono riuscite a denunciare l'accaduto con una protesta di piazza. I fatti appunto sono che richiesta della Conferenza Episcopale Spagnola la gerarchia vaticana, Ratzinger, ha beatificato 498 franchisti, una delle beatificazioni di massa più grandi della storia, 498 tra laici e religiosi, tutti morti nel 36 a parte pochissime eccezioni, quindi evidentemente partecipi a quella che è stata la guerra civile che è scattata al momento in cui c'è stata la sollevazione militare di Franco, che poi ha portato all'imposizione della dittatura che ha oppresso la Spagna fino al 75. Questi appunto i fatti, ma vediamo un po' come sono andate come poi sono andati questi fatti, a partire ad esempio dal dato di fatto che la Chiesa si aspettava 1 milione di partecipanti, fare un bagno di folla per questi franchisti, e ne ha avuti 30.000, cioè la fila media davanti ai musei vaticani o la presenza media di un Angelus domenicale qualsiasi. Monica? Ma passiamo invece ad analizzare cosa hanno detto i media, e voi direte, i media si sa, siamo in Italia, no, passiamo ad analizzare cosa hanno detto i media internazionali sul fatto. Ci sono stati articoli in tutte le lingue, approfondimenti interessanti, parecchie prime pagine notevoli. Bisogna ricordare che fino al giorno precedente praticamente non ne aveva parlato quasi nessuno fuori dalla Spagna. Innanzitutto analizziamo velocemente i media in inglese. Nei media in inglese la parola martiri è sempre scritta fra virgolette, E c'è stata la prima pagina dell'International Herald Tribune. Il Times Online ha fatto una traccia chiara sul fascismo relativo a questa beatificazione. In certi quotidiani come il Telegraph si parla di sommosse contro la beatificazione. Addirittura Al Jazeera English ha fatto una pagina sulla storia di Spagna, considerando ovviamente che magari gli utenti di Al Jazeera possono non conoscere la storia di Spagna. Ha fatto tutta una pagina che è disponibile su YouTube sulla storia di Spagna e la connessione di questi recenti eventi con l'ingerenza vaticana, e basta scrivere 498 su YouTube, è piuttosto divertente. E poi critica il Vaticano anche sul Guardian. C'è stato un interessantissimo editoriale del Financial Times, quindi editoriale del Financial Times, in cui viene comparato il lavoro delle destre e della gerarchia ecclesiastica al fine di costruire una memoria selettiva in Spagna. E questo viene comparato con ciò che hanno tentato di fare i gemelli, scusate la pronuncia, Kaczynski in Polonia fino a poco tempo fa, fino a quando erano al governo. Viene comparato con la coltre calata sulla pulizia etnica di massa nella seconda guerra mondiale in Europa e gli effetti di questo nella ex Jugoslavia, e viene comparata con il lavorio della Turchia rispetto all'Armenia. Non scendo nei dettagli, però insomma, per chi sa l'inglese, l'articolo si conclude con: c'è sempre un prezzo per la soppressione della memoria. I più laici francesi hanno seguito meno l'argomento, ne hanno parlato più i media di destra. Le Monde parla però solo di polemiche in Spagna e pochissime sono state le citazioni della protesta. In tedesco invece esplosa una polemica enorme sulla stampa a tutti i livelli e sul ruolo del Vaticano più in generale. Fra i giornali più conosciuti qui è particolare il Der Standard, mi scuso di nuovo per la pronuncia, che critica fortemente la beatificazione, mentre Telepolis, che magari è meno conosciuto ma è interessante perché mette pure una foto di Franco in compagnia di un curato, di un arcivescovo. In spagnolo dovrebbe essere la più interessante di tutti, invece scopriamo che la stampa spagnola inizialmente cerca di soprassedere, soprattutto quella di sinistra. Basta citare che il País lunedì non ha citato nulla. Mentre la notizia si diffondeva in tutta l'America Latina, cito La Nazione in Argentina, ma anche insomma altri, in Brasile sul corrispettivo di Indymedia, eccetera. In Spagna le notizie escono la mattina di lunedì, quindi praticamente un giorno di ritardo. Ovviamente ci sono state agenzie anche domenica, però appunto la massa delle notizie sulle proteste e sulla beatificazione esce con un giorno di ritardo e con toni piuttosto conservatori. Però appunto quando esce danno molto spazio anche alle proteste, come su Minuto Digital, che è insomma un media catalano. Da citare che oggi il Parlamento spagnolo quindi non il Senato, il Parlamento intanto ha approvato la legge sulla memoria storica appunto viene considerata da molti osservatori internazionali, a questo punto possiamo dire, alla base di questa beatificazione, ma c'è una sorpresa. La decisione che ha preso il Parlamento è che questa legge non influenzerà le chiese. Cosa significa? Che uno degli effetti della legge sarà che dovranno essere tolti i simboli franchisti, dovranno essere tolti dai luoghi pubblici, però questo secondo appunto grazie all'intervento di alcuni partiti di destra avuto oggi in Parlamento non influenzerà minimamente appunto la presenza di questi tipi di simboli nelle chiese. È gravissimo. E adesso una canzone piuttosto a tema. Vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz del rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar, que el pueblo va a triunfar, será la vida que vendrá. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanza ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. Conquistar nuestra. necesidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad y con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza. Ancora dai microfoni di Radio Onda Rossa sulla Breccia dell'Onda, la trasmissione settimanale di Facciamo Breccia. Stasera abbiamo qui con noi un ospite molto gradita, una compagna della Militant che ci racconterà innanzitutto cosa è successo domenica mattina a Roma davanti alla chiesa dell'Opus Dei a Sant'Eugenio. Salve a tutti, anzi buonasera a tutte e tutti, posso anche risparmiarmelo considerando che stasera c'è derby, partite varie e quindi... nessuno o quasi nessuno degli uomini a noi noti sono nei paraggi, almeno non vicino a una radio se non sintonizzati a ascoltare la partita. Allora, brevemente vi racconterò cosa è successo domenica. Erano verso le 11:45 un gruppo di persone, alcuni militanti della Militant, scusate il gioco di parole, e alcuni di appunto Facciamo Breccia. E ci siamo mossi alla volta mi avvicino di più, sì perché essendo non essendo pratica ovviamente. Ok, ci siamo volti mi sono impappinata, siamo andati appunto fuori dalla chiesa di Sant'Eugenio, in particolare chiesa che è appunto una chiesa dell'Opus Dei, e abbiamo messo diciamo una ghernica gigante 4x2 metri sul portone della chiesa e poi uno striscione fatto di carta attaccato proprio con lo scotch che recitava: chi ha ucciso, torturato e sfruttato non può essere beato. Chiaramente tutto questo era stato fatto e pensato anche grazie, sentendo appunto una delle trasmissioni serali di Facciamo Breccia, che ci ha per l'appunto ispirato a non tacere, come è successo già altre volte, per esempio con la beatificazione di Echevarria sotto Papa Wojtyła, e quindi diciamo, ci siamo decisi a fare questa cosa, che voleva essere comunque una protesta pacifica, pacifica nei modi, nei gesti, anche appunto nel modo anche di confrontarsi con il pubblico che avremmo trovato fuori dalla chiesa. Ovviamente le cose non sono andate esattamente come avevamo programmate, perché quando la messa è finita, a mezzogiorno in punto, i fedeli sono cominciati ad uscire dalla chiesa e stranamente all'inizio non avevano neanche ben capito cosa ci fosse scritto sullo striscione, per essere proprio del tutto puntuali, cioè non capivano bene a cosa si riferisse. Poi c'è stata una sorta di parapiglia, più che altro perché molti di loro proprio non volevano neanche che venisse appunto poggiata la ghernica sul portone, e a un certo punto, mentre tutti quanti noi nei vari punti del sagrato della chiesa stavamo parlando con varie persone, è scattato una vera e propria, chiamiamola rissa, diciamo, ma non è stata esattamente così, perché i fedeli, ci metto le virgolette perché fedeli e così cristiani non sono, ma insomma si sono scagliati contro lo striscione, l'hanno strappato e fatto in piccoli pezzettini, contro la Guernica stessa, che ora, voglio dire, è comunque un quadro famosissimo di Picasso e bastava semplicemente venisse tolto, no? Invece sono proprio accaniti a farlo in piccoli pezzi. E poi contro di noi fisicamente, in particolare contro un paio dei ragazzi che erano venuti con noi, che ovviamente sono stati tirati giù dalle scale e malmenati, questo c'è proprio da dirlo, malmenati da diciamo gente in giacca cravatta appena usciti probabilmente dalla chiesa e che molto probabilmente si erano anche battuti il petto in espiazione dei loro peccati. Quindi tutto questo è finito in un'enorme parapiglia e a un certo punto è arrivata la volante, la famosa volante dei carabinieri, una camionetta dei carabinieri che in realtà non era neanche venuta appositamente ma stava andando allo stadio e quindi ha bloccato la cosa e sono intervenuti prendendo ovviamente i documenti, soprattutto i nostri, diciamo. E poi è stato segnalato ai carabinieri anche qualcuno di questi fantomatici fedeli, quelli particolarmente aggressivi, in realtà se ne erano già andati, quindi insomma sono stati recuperati un paio di personaggi loschi e sono stati identificati in teoria anche loro, poi non si capisce bene. Nel frattempo il compagno che era venuto con noi con il furgone che era servito esclusivamente a portare appunto i pannelli di cartone, ci tengo a precisare di cartone, che avevano dietro delle stecche di legno, delle cantinelle di legno per reggerlo dritto, diciamo, quindi nessun bastone come è stato scritto, eccetera, eccetera. E il compagno si è allontanato per un motivo del tutto personale, poco prima che arrivassero i carabinieri con il furgone, ed è stato fermato tipo blitz della polizia contro il terrorista più pericoloso del mondo all'altezza di viale Bruno Buozzi, cioè gli hanno tagliato la strada con la macchina della polizia, l'hanno fatto scendere, hanno cominciato a perquisirgli il furgone e hanno preso, diciamo così, tutto, cioè, hanno trovato una scala con la quale noi ci eravamo arrampicati per attaccare lo striscione, hanno trovato una pericolosissima telecamera con cui noi abbiamo ripreso quello che era successo, 5 cassette, che molto probabilmente, cioè, ovviamente c'era il compleanno di chissà chi sopra, e poi hanno sequestrato anche, se non sbaglio, 2 bandiere, questo agli atti. E poi il compagno in questione è stato portato al commissariato di viale Bruno Buozzi e trattenuto per ben 4 ore, quindi tutto questo senza nessun motivo in realtà, per cui anche tramite gli avvocati eccetera, in realtà il compagno per un puro dispetto, diciamo così, è stato trattenuto per più di 4 ore al commissariato. Tra l'altro non ha potuto neanche comunicare ai familiari che era stato fermato, e quindi per ben 4 ore i familiari stessi sono immaginati il peggio, credendolo chissà dove e chissà come. Insomma, è stato, fortunatamente alcuni compagni hanno riconosciuto il furgone fuori dal commissariato e poi è stato prelevato grazie anche alla presenza dei compagni fuori. Questo per dire il clima meraviglioso che si era creato nella giornata di domenica. E c'è da dire di buono che, se non altro, la sera, accendendo i telegiornali, la notizia mediatica, diciamo così, passata per i telegiornali è stata di rissa, per l'appunto, tra manifestanti dei centri sociali, e qui ci sarebbe tutto da dire, e militanti dell'Opus Dei. Quindi, se non altro, diciamo così, l'idea stessa del solito manifestante con cappuccio in testa, bastone, che vada ad aggredire il povero cattolico fuori dalla chiesa, se non altro questa volta non è passato, se possiamo ritenerla, diciamo così, una minima vittoria. L'altra minima vittoria, non direi minima a questo punto, è stata appunto l'eco che questa cosa, diciamo così, ha suscitato. Poi chi più chi meno, in Italia in particolare, se ne è parlato molto, molto relativamente, con toni leggeri, diciamo così, di notizia e basta, diciamo, senza approfondire, senza entrare nel merito, perché in Italia, come tutti noi ben sappiamo, essendoci il Vaticano, di queste cose non si parla o se ne parla sempre con toni molto pacati. Vorrei però soltanto segnalare l'intervento di Folena. Che, sì, segnalalo. Ecco, sì, mi permetto di dire, non sempre uno, se intervistato, deve rispondere, insomma, può anche scegliere di non dire nulla, che è forse la cosa migliore da fare nel caso specifico. perché intervistato insieme ad Alemanno, mentre le dichiarazioni di Alemanno, da Alemanno uno se le aspetta, come dire, da Follena sono del tutto gratuite, del tipo in soldoni, il Papa ha diritto di beatificare chi vuole, e queste cose non fanno altro che, diciamo così, alimentare l'odio, mettiamola in questo modo. Dichiarazione che, ripeto, era assolutamente gratuita. Per quanto riguarda tutti noi invece, perché poi sei persone sono state, questo per inciso, sono state fermate domenica, sei più altre due che sono state fermate direttamente al commissariato ed erano le persone che erano andate a prendere il compagno con il furgone e quindi sono state identificate e fermate anch'esse, pare penda soltanto una, diciamo, denuncia per manifestazione non autorizzata ad oggi, salvo complicazioni che possono essere appunto lesioni e denunce per lesioni fatte dagli eventuali aggressori, esatto, chiamiamolo così, i quali però hanno dal punto di vista legale, diciamo, 90 giorni di tempo e quindi non lo sapremo mai fino al 91esimo giorno se ci hanno denunciato o meno. La cosa cambia un po' il quadro, la situazione dal punto di vista legale, però vabbè. Altra, l'ultima cosa e chiudo, il compagno che è stato malmenato più di tutti e che in alcune foto riportate dai giornali ha comunque riportato problemi fisici veri, reali, e ad oggi appunto ancora sente le conseguenze di quella maledetta domenica, e maledetta o benedetta che sia. Grazie a tutti. Grazie a te e soprattutto grazie per aver pensato questa iniziativa. Io ho sinceramente trovato molto appropriata la scelta di fare la protesta davanti alla chiesa dell'Opus Dei, perché sinceramente l'ho trovato proprio perfetto, ecco, nel senso, e credo anche che questa manifestazione abbia contribuito molto a far sì che la notizia passasse, in qualche modo è passata anche in Italia, perché comunque i telegiornali ne hanno parlato. E hanno parlato anche in qualche modo di quello che si stava compiendo in Vaticano. Anche a me ha colpito molto la dichiarazione di Follena, proprio perché fuori luogo, perché poteva tacere, perché disordine sociale, insomma, si tirano fuori delle cose veramente fuori luogo. Mi ha colpito anche un'altra dichiarazione, anche se non è una persona da cui non mi aspettavo niente, ma per la saccenza con cui è stata formulata, era una dichiarazione di Giordano Bruno Guerri, che mi pare sul giornale, quindi insomma non è che mi aspettassi chissà che. Giordano Bruno Guerri da sempre si dichiara anticlericale, laico e anche autore di un bel libro, a mio parere, sulla costruzione di Santa Maria Goretti da parte del Vaticano e di Mussolini in accordo, insomma, che però ha voluto dirci appunto dalle pagine del giornale che l'anticlericalismo non si fa così, perché lui non si sarebbe mai permesso di andare a dire chi la Chiesa può o non può santificare. Ma se io invece penso che se dietro a questo c'è una riabilitazione del fascismo, del franchismo, e c'è il urlare ad alta voce il sostegno al fascismo vecchio e nuovo, credo che tutti e tutti abbiamo il diritto e il dovere di dire la nostra. Io ringrazio ancora la compagna della Militant che è stasera qui con noi e insomma speriamo di intrecciare ancora i nostri percorsi. Adesso magari un po' di musica. Vorrei che il Vaticano andesse in fiamme, il Papa ne bruciasse e le melemme, e il Papa ne bruciasse e le melemme, bruciasse preti in corpo alle sumame. Non voglio preti frati e paternostri. Non voglio preti e frati e paternostri. La voglio la bandiera dei socialisti. Siamo ancora qui dai microfoni di Radio Onda Rossa per Sulla Breccia dell'Onda. E io sono Elena, l'altro microfono Monica, stasera più silenziosa perché la precarizzazione del lavoro l'ha distrutta, l'ha tolto la voce, però ci mette questi bellissimi pezzi musicali. E passiamo a un'altra notizia che viene sempre da Oltretevere, perché il nostro Ratzinger e i suoi scagnozzi sono assolutamente irrefrenabili. Quasi in concomitanza con la beatificazione dei franchisti di cui sopra, Ratzinger ha parlato di obiezione di coscienza dei farmacisti. Questa, diciamo, è la forma di ingerenza più classica a cui ci è abituato la Chiesa Cattolica, anche i temi sono quelli su cui il Vaticano sta puntando tantissimo ormai da, direi, tutto il pontificato di Wojtyla almeno. E cosa è successo? È successo che al convegno dei farmacisti cattolici Ratzinger ci ha voluto far sapere che l'obiezione di coscienza è un diritto che deve essere riconosciuto alla professione dei farmacisti, permettendo loro di non collaborare direttamente o indirettamente alla fornitura di prodotti che hanno per scopo le scelte chiaramente immorali, come ad esempio l'aborto e l'eutanasia. Non si ferma qui e dice, e inoltre Ratzinger ha esortato a combattere la mentalità che anestetizza le coscienze, per esempio sugli effetti delle molecole che hanno come scopo quello di non permettere l'annidamento e lo sviluppo dell'embrione o di abbreviare la vita di una persona. A cosa si sta riferendo? Appunto, riuscita aborto e eutanasia, ma in realtà probabilmente lo scopo è quello di riuscire a fermare del tutto la vendita, già difficile in molte regioni d'Italia, perché in realtà molti farmacisti non la vendono, della pillola del giorno dopo, anche perché i medicinali come la RU486, la cosiddetta pillola abortiva, in realtà per legge sono di esclusivo uso ospedaliero, e del resto anche l'eutanasia, insomma, almeno al momento non è pensata come fai da te, per cui l'appello del Papa sarebbe rivolto essenzialmente alla cosiddetta pillola del giorno dopo, e probabilmente con l'ottica di allargare poi il discorso, cioè il divieto, la non vendita, a tutti i tipi di anticoncezionali, la pillola tradizionale compresa. Quindi appunto siamo alle tematiche tipiche del papato di Ratzinger, ma anche di Wojtyla, tanto tipiche di questi due papi, che in realtà un discorso molto molto vicino a quello che Ratzinger ha fatto in questi giorni ai farmacisti cattolici l'aveva fatto nel 1990 Wojtyla, sempre al congresso dei farmacisti cattolici. Le parole erano quasi le stesse, si diceva anche allora che il farmacista è un intermediario tra medico e malato e che in quanto tale ha un ruolo morale ed etico estremamente rilevante, e quindi i farmacisti, che diceva Wojtyla, sono sollecitati verso fini non terapeutici suscettibili di contravvenire alle leggi della natura a danno della dignità e della persona, devono assolutamente reagire. E diceva anche Wojtyla, nella distribuzione delle medicine il farmacista non può rinunciare alle esigenze della sua coscienza in nome delle leggi del mercato, né, attenzione, in nome di compiacenti legislazioni. Le compiacenti legislazioni ovviamente sarebbero quelle che permettono l'aborto, l'uso di contraccettivi e l'eutanasia. A tutto questo c'è stata una reazione immediata di Federfarma, che è la Federazione Nazionale dei Farmacisti, che rappresenta tutte le farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che non protesta per l'ingerenza assolutamente fuori luogo di Ratzinger, cioè non dice quello che il buonsenso vorrebbe, cioè che Ratzinger si occupi della farmacia in Vaticano e lasci le farmacie sul territorio italiano a chi di competenza. No, dice, ma se si vuol far questo è necessario che sia modificata la legge attuale, che obbliga il farmacista, dietro presentazione di ricetta medica, a consegnare il farmaco o a procurarlo. Quindi Ratzinger propone di fare dei farmacisti delle sorte di confessori che devono avere, lo dice lui stesso, un ruolo educativo con il paziente. Quindi quando il paziente arriva, o la paziente soprattutto, arriva con la sua ricetta, lui devo dire: ma perché la vuoi? Ma sai che questo non va bene qui là sotto e sopra. Ovviamente appunto in realtà sono cose che purtroppo già succedono in alcune zone d'Italia, anche ampiamente. La pillola del giorno dopo in certe città non si trova, si trova solo in una o due farmacie, ma qui si tratta appunto di allargare il discorso e di renderlo sistematico in qualche modo. Di questi temi sicuramente ne riparleremo, ma per il momento io direi che ci possiamo anche fermare e ascoltarci un pezzo dei tempi che, della Mandalir dei tempi che furono, ho fatto l'amore con me. Tanto per scendere un pochino di tono. Ops. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se ci cascavo con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te, e mia opinione si sa di fare ciò che me va. Domani sera cerco te, giorni feriali voglio a me. Ho fatto l'amore con me semplicemente da me, le braccia muoiono già, la testa è andata, si sa. Chissà se lei, se lui lo sa, chissà se tu, se io, chissà, chissà se lei, se lui lo sa, chissà se lei, se lui lo sa. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascavo con te. Domani sera cerco te, giorni feriali voglio me. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascavo con te. L'amore con me per stare senza di te, e mia opinione si sa di fare ciò che me va. Chissà se lei, se lui lo sa, chissà se tu, se io, chissà. Domani sera cerco te, l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascavo con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te, e mia opinione si sa di fare ciò che me fa. Chissà se lei, se lui lo sa, chissà se tu, se io, chissà, chissà se lei, se lui lo sa. L'amore con me, semplicemente da me, le braccia muoiono già, la testa è andata, si sa. Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascavo con te. Chissà se lei, se lui lo sa, chissà, chissà se tu sei. Siamo di nuovo qui ai microfoni di Radio Onda Rossa, è la trasmissione di Facciamo Breccia, e l'amore non si può fare né con me né con te, di un sesso o di un altro, perché come sappiamo, insomma, Ratzinger è lì che supervisiona le nostre attività sessuali e dintorni. Ma passiamo a un altro argomento triste, anche questo. Purtroppo è così, andiamo in Toscana a vedere un po' più approfonditamente cosa sta facendo la regione toscana riguardo all'orientamento sessuale. Ne abbiamo già all'orientamento omosessuale in particolare, ne abbiamo già parlato nella scorsa trasmissione, ma il caso a nostro avviso merita un po' di approfondimento. La regione toscana ha approvato ormai 3 anni fa una legge contro la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Prima regione in Toscana, come sapete in Italia non c'è nessun tipo di legislazione, e quindi in qualche modo anche il fiore all'occhiello di questa regione, ci ha fatto un gran battage pubblicitario sopra. Una legge che è arrivata a essere approvata in Consiglio regionale come una buona legge, costruita anche con la partecipazione di pezzi del movimento GLBT, ma poi in realtà cassata in parte perché in contraddizione con le leggi dello Stato. Comunque insomma qualcosa è rimasto. Fatto sta che l'applicazione di questa legge è invece molto meno felice come storia, nel senso che di fatto fino a un anno fa la regione non ha fatto assolutamente niente. Dopodiché ha affidato l'applicazione di questa legge a un assessore, Agostino Fragai, che è assessore alle riforme e alla partecipazione. Il fatto che Fragai sia assessore alla partecipazione in Toscana è quasi una barzelletta, perché diciamo che il signore di Essino, Doc, si è distinto nel periodo del Social Forum per forti attacchi nei confronti del movimento, ma a lui è toccata questa patata bollente, come lui stesso l'ha definita in una riunione con una parte del movimento GLBT. Fragai l'ha portata avanti questa legge, diciamo, secondo i metodi tradizionali dei DS, che sembra stiano diventando assolutamente anche quelli del PD, ovviamente, e cioè ha deciso di dare in mano questa legge a un consulente che si è appositamente scelto e profumatamente pagato. Un consulente che di fatto, come Azione Gay e Lesbica cercava di dire fino dall'inizio inascoltata, è ovviamente un filtro fra le associazioni, il movimento e l'istituzione. Non abbiamo visto in Toscana grandi risultati di questa legge fino a non più di 10 giorni fa, quando in concomitanza con un convegno molto strombazzato su questi argomenti, cioè sull'applicazione della legge, la regione ha reso pubblica una campagna contro l'omofobia che è in questi giorni per le strade toscane. Questa campagna consta di un manifesto nel quale viene ritratto un neonato che ha un braccialetto al polso con scritto omosessuale, anzi homosexual, e una scritta con scritto che recita: l'orientamento sessuale non è una scelta. Ci sono state subito forti critiche a questa decisione della Regione Toscana, anche se diciamo non corali. Azione Gay e Lesbica ha immediatamente divulgato un comunicato, un appello su cui chiede l'adesione, per esprimere l'indignazione per il messaggio scelto. Il messaggio scelto, che è uno slogan che ripropone le teorie sulla differenza genetica, che condanna lesbiche, gay e trans alle stigmate della minorità e quindi della discriminazione, e di fatto, benché vada, invita a una tolleranza pietistica verso le persone ad orientamento sessuale, mostrando lesbiche, gay e transessuali come soggetti deboli che non scelgono le proprie vite. Questa campagna è stata attaccata vergognosamente dalla destra, dalla Lega e dall'UDC in particolare, ma la campagna in sé è appunto sconcertante, come scrive Azione Gay e Lesbica. Sconcertante perché pensavamo che il dibattito su quanto riguarda un'ipotesi culturalista e una biologista sulla nascita dell'omosessualità non fosse un tema da affiggere sui muri, e comunque pensavamo anche fosse un dibattito alquanto superato. È un'impostazione, quella di questa campagna, che tradisce completamente il concetto di pride, di orgoglio per la propria dignità e il percorso di lotta di soggettività che vogliono autodeterminarsi. Percorso di lotta che dal 69 a oggi porta in piazza milioni di lesbiche, gay e transessuali in tutto il mondo nella giornata del pride. quella parte del movimento, purtroppo devo dire quella parte del movimento, perché Arcigay ha molto difeso questa campagna, con Arcigay anche altri pezzi, mentre Azione Gay e Lesbica a Firenze, in Toscana e Facciamo Breccia in tutta Italia sostengono con forza il concetto di autodeterminazione di tutte e di tutti. E pensiamo anche banalmente che il rispetto sia dovuto a tutte le persone, a prescindere dalle loro scelte e dai loro stili di vita. Come è stato possibile che venisse costruita una campagna di questo genere? È stato possibile per il semplice fatto che la campagna non ha nemmeno contattato le associazioni per sapere, per discutere quale potesse essere il messaggio più adatto. Ci sembra che questa sia appunto la partecipazione in salsa PD e che sia un caso estremamente interessante da questo punto di vista. Invitiamo tutte e tutti, singole e singoli, soggetti organizzati, a aderire all'appello che ha diffuso Azione Gay e Lesbica e che trovate sul sito di Facciamo Breccia, www.facciamobreccia.org. Siamo alla fine della trasmissione, quindi purtroppo non potremo parlare della truffa ad opera della Compagnia delle Opere, quindi DCL, l'organizzazione di Don Luigi Giussani, che è stata denunciata dalla finanza per truffa verso l'Unione Europea, lo Stato e la Regione, ma ce ne sarà sicuramente modo. Intanto, hasta la breccia, e vi salutiamo con questa canzone. Se volete contattarci sulla breccia dell'onda, @autistici.org. Altrimenti, mercoledì prossimo alle 20:15 su Radio Onda Rossa. Llena mi vida, esta noche saldré con mi novia a bailar. Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora. Bailaré toda la noche hasta la madrugada. Escucho un susurro que a diario me llama. Me estoy volviendo loco.